If you feel you're well established in the practice because of your past retreats, then feel free to do walking meditation. Because this session is really just answering any basic problems that people come across. Questa sessione è destinata a dedicarsi, diciamo, a rispondere ad eventuali problemi che sono emersi. If you want to stay, you're very welcome. Se vuoi stare, siete benvenuti. Don't have to go. Non dovete andare. So, is there anybody here who hasn't done the meditation before, this meditation before? Ma c'è qualcuno qui che non ha mai fatto questo tipo di meditazione prima d'ora? Just a few. Yeah. Okay. So, how are you finding the noting practice? Are you practicing the noting? Yeah. The problem is time. Half an hour it's okay. More than that. Quindi il problema è il tempo, cioè che una mezz'ora va bene, poi oltre la mezz'ora è più difficile. I don't want to overwork because I don't feel comfortable if I stay longer in the meditation. It's my problem. If you speak in Italian, because it's easier that way. Il tempo, la durata della seduta che influisce sulla mia situazione, diciamo, mentale. E, ad esempio, ieri sera per me è stata troppo lunga la sessione, 3 ore, quindi ho avuto dei problemi. I problemi che il venerabile diceva, quelli del restless. Sì. But it's difficult to stay. In Italian, speak Italian. I can understand. È difficile applicare quello che il venerabile ha detto, vale a dire rifiutati di muovere. È facile dirlo, ma farlo è molto difficile. I think. Mi è venuto un po' di ansia, sinceramente. This is everybody's problem. Huh? Questo è il problema di tutti. Thank you. Translate in English. Oh yes, sorry. Okay, so he said he found yesterday's evening session a little bit too long. I got it. Did you get it? Did everybody get it? Okay. Yeah. It's just a case of building up the habit. È una questione di cominciare, cioè stabilire una abitudine. When the restlessness comes, if it's very very strong, and you feel that you can't work with it anymore, then stand up. Quando viene l'agitazione ed è molto forte, sentite che non potete più lavorarci assieme. Semplicemente alzatevi in piedi. If in the standing posture you feel the restlessness is just too much and you feel that you know, you don't want to suffer it anymore, then go and do some walking meditation. Se anche nella posizione da in piedi l'agitazione diventa troppo e non riuscite più a sopportarla, allora potete andare a fare una meditazione camminata. If in the walking meditation the restlessness is really bad, really bad, sit down, have a cup of tea. So always remember that what we're trying to do is investigate, to try to understand what is happening. When we lose that equilibrium, there's no point. Quello che noi stiamo cercando di fare è di investigare, indagare, capire quello che sta succedendo, e se perdiamo questo equilibrio allora non ha più senso. On the other hand, one should not give up easily. We should try to remain as much as we can. Only on the point where we think we're going mad should we then move. Because remember, the restlessness is just restlessness. The problem is, for us, we find that very difficult inside. Perché riguardo l'agitazione, è solo agitazione. Il problema è che noi da di dentro lo sentiamo come molto difficile. It is our reaction to it which is causing the suffering. È la nostra reazione ad essa che ci crea la sofferenza. So always remember that there is the presenting problem, agitation, sleep, whatever, and there's this reaction. Quindi ricordate sempre che c'è il problema, l'agitazione, la sonnolenza, e poi c'è la reazione a questo problema esistente. So when you feel restless and it's becoming uncomfortable, put your attention on the uncomfortable. Quindi quando sentite l'agitazione e sentite questo disagio, mettete l'attenzione sul disagio. Although it's very difficult, I know, but that's what we do, eh? And if we feel we're going mad, we put the attention on mad. Oh, really? Anche se questo è molto difficile, se vediamo che stiamo diventando pazzi, allora mettiamo l'attenzione sul diventare pazzi. Restlessness won't kill you. L'agitazione non ti ucciderà. I may kill somebody else. Potrebbe uccidere qualcun altro. So, if you find the sitting over the next three or four days, a little too long, then just when it gets too much, do some standing meditation. Quindi se senti che la seduta nei prossimi 2 o 3 giorni è troppo lunga, la durata è troppo lunga, allora fai della meditazione in piedi. And very slowly you'll see you can sit. For 1 hour. Piano, lentamente vedrai che riuscirai a sederti. My job is to push people to the limits. Your job is to escape. Il mio lavoro è spingere le persone fino ai loro limiti. Il vostro è quello di scappare. We have to come to a negotiated agreement. Arrivare a una negoziazione, a un accordo negoziale. Do you find the noting helpful for your meditation? Trovi che il notare è di aiuto per la tua meditazione? Sì, quando sono in condizione. There you go, okay. Sì. A proposito del noting, io trovo che le volte sono già tornata prima di aver avuto il tempo di dare un nome. E a quel punto non sono sicura se è importante tornare a dare un nome o lasciare andare il pensiero. I find that when I find that I've been distracted, I've already come back from thinking or planning or worrying or fantasizing before I've given it a name or a label, and I don't realize, I don't know how important it is to stay there long enough to give it a label or just let it go. when we lose that awareness in thought and then we wake up out of the thought, the importance is simply to recognize what the mind is getting caught up in. But is it important to, does recognizing mean it's important to give it a name, even though you've already recognized? I mean, it's difficult. I would have thought that there's a labeling going on anyway. You see, it's just making that label conscious to ourselves. I mean, when I when there's a, like there was a fly, so when there's a fly landed on me, you see, whether I like it or not, the mind said, flies landed on your face. It already happened. So, to make that conscious to ourselves, planning. You see, there's a lot of our thought which we may not be so much aware of, about how the mind is working. Sorry. I don't know if I got it straight. Allora l'idea è che la domanda era che a volte è consapevole di ciò che accade prima di riuscire ad etichettare. Allora il generale dice che molte volte noi non siamo così consapevoli del processo del pensiero, quindi l'etichetta serve proprio per fissare ciò che accade, visto che lui per esempio aveva una mossa che gli girava e lui la sua mente ha colto la mosca che si posava sulla guancia prima ancora che lui ovviamente mettesse l'etichetta. The mind is always labeling. Quindi la mente è come se fosse continuamente etichettando. It's making that very obvious to ourselves. E quindi l'etichettare mentalmente è solo rendere ovvio questa cosa che la mente già fa di per sé. But the purpose for the acknowledgement, like planning, see. So now you know there's something here which is causing this. Quindi però lo scopo del etichettare, quindi dire per esempio programmare, è che si sta riconoscendo che c'è qualcosa qui che sta causando quel pianificare. Although the mind can be just restless, most thought is being empowered through our desires. Quindi anche se la mente è agitata, la maggior parte dei pensieri prendono forza dal nostro cuore. So it may desideri. So it may be that we are watching the rising and falling, and then just a little boredom comes. Quindi supponiamo che noi osserviamo la salire e scendere dell'addome e subentra una piccola noia. Our reaction is immediately to look for distraction. Quindi la nostra reazione è immediatamente andare a cercare una distrazione. So the heart becomes excited, looking for distraction. Quindi il cuore comincia a diventare distratto perché agitato perché cerca quella distrazione. And it will look for a habit. E cercherà un'abitudine. And the habit is to plan a holiday to Acapulco. L'abitudine è, per esempio, organizzare una vacanza ad Acapulco. Off I go. I wake up planning. Oh, hold on. I come back into the body. I feel the excitement. Ecco, allora uno si rende conto del tutto solo quando ha il pensiero pianificare. Poi dice, aspetta un attimo, torno indietro e vedo il desiderio. I wait for it. Meditazione. And then I wait for it to exhaust itself. Quindi aspetto che si esaurisca. And then calmness comes, I return to the breath. E poi ritorna la calma e uno ritorna al respiro. Quindi bisogna tornare indietro per vedere che cos'era, da cosa è nato. So you have to go back and see what caused it. No, it's all, don't go back, it's in the present. It's the problem is this excitement that is now. Quindi non è questione di tornare indietro, di restare nel presente, ma il problema è l'eccitazione, l'eccitamento che hai adesso. If you then begin to ask where does this excitement come from, and you're trying to do some psychoanalysis, then you get lost. Se invece tu cominci a dire da dove viene questa eccitazione e cominci a fare un po' di psicanalisi, allora ti perdi. Yeah, because that which is trying to psychoanalyze us is the very part that's deluded. Perché è proprio quella parte che sta cercando di psicanalizzarci è quella parte che è illusa. So it will always fool you. Quindi ti pregherà sempre. Sì. Sì. Riguardo l'etichettatura, il labeling, sembra che ci sia il primo stadio in cui non c'è consapevolezza. per niente. Ma c'è questo processo comunque di verbalizzazione nominale, qualsiasi cosa accada, anche se non me ne accorgo. Nella pratica questo diventa ovvio e c'è questa etichettatura. Mi accorgo però anche che spesso questo etichettare è come se fosse un filtro, immagino per un meccanismo di paura che mi impedisca di sentire direttamente, allora sto tentando di lasciarlo andare. Seems to me that it's working like this for me right now. There is this ever present labeling going on, and I'm not aware of it. Practice brings to the surface or makes obvious that. Can you hear? Can you hear? Yeah, a little bit higher. Yeah, a little bit louder, yeah. Okay, first step there is no awareness of anything. Then practice makes it obvious that there is naming or labeling process going on all the time. There's this felt sense of feeling that heaviness or tightness or something like a burden or something like that. And most of the time I'm realizing that this labeling or naming works like maybe like a filter or something to keep at bay or at distance, or not wanting to feel directly because of fear or something like that, akin to the not wanting or driving. So I'm trying just to drop it. It could be because it seems to me I can aim it so I can keep it under control, something like that. Mm. Yes, that's what we do with emotions, we rationalize them. Questo è ciò che facciamo con le emozioni, noi le razionalizziamo. So we don't really feel them as they are, as they want us to be felt, as they want us to feel them, rather. E quindi non le sentiamo così come loro vogliono che noi le sentiamo. So be careful that you don't use the word to push something away. See? Attenzione a non usare la parola per spingere via qualcosa. Depression. depression. And you're pushing away, is it? La state spingendo via. It's as though the intelligence has this word, depression, and it's going through the word, or under the word, or over the word, whichever way you want to imagine it, to the sensations, the feelings. È come se l'intelligenza utilizzasse questa parola per andare attraverso, cioè per passare attraverso la parola, andarci sotto, così come volete, ma arrivare alla sensazione, a provare la sensazione. So the noting begins to be a very soft background noting, keeping the intellect occupied. Quindi questo notare, annotare, questo etichettare, è come se fosse un'attività sullo sfondo, per tenere la mente attiva, occupata. Quando ci sono delle sensazioni naturalmente sgradevoli che tendono ad essere molto invasive e non si riesce a dargli un nome, a etichettarle, nessuno non c'è, non si sa più come riconoscerle. If there's no noting word, translate. Sometimes you have some very unpleasant feelings or sensations that you don't have a label for. So how do you go about that? I just say feeling. Any word, yes. Don't search for a word. Non andare alla ricerca di una parola. Devo dire sensazione. Yeah, just say feeling unpleasant, just like that. If you start searching for a dictionary, this is not good. Semplicemente sensazione spiacevole, se comincia a pensare al tuo dizionario interno, al tuo vocabolario, non va bene. And if you have the mind of a poet and you want to get the exact word, this is at the end of the retreat you will write lovely poetry, but there'll be no wisdom. Se sei un poeta, allora andrai alla ricerca della parola perfetta che esprime esattamente quella sensazione, alla fine del ritiro farai delle poesie bellissime, ma non ci sarà saggezza. Yes, our aim is to feel, experience feelings in the body. Quindi il nostro scopo, il nostro obiettivo è proprio quello di fare esperienza delle sensazioni nel corpo. And you will come to a point where there will always be no word for that feeling. Arriverete sempre a un punto dove non ci sarà una parola per quella sensazione. Because words are only approximate. Perché le parole sono solo approssimative. Ma lasciando entrare alcune sensazioni negative, senza riuscire magari anche a etichettarle, quindi avere non dico controllo, ma razionalizzarle, come ho detto prima, non è che dopo ti invadono, cioè passi tutto il tempo senza quella sensazione lì, perché io mi accorgo che tende a prendere molto potere dentro di me. They're very invasive. Yeah. So, is there a risk that these will take control? When an emotion or feeling becomes very big, you see, and you feel that you're losing control, So just be aware of the fear of losing control. Quindi quando una emozione negativa diventa sempre più grande, cresce dentro di te e tu hai la paura di prendere controllo o di perdere il controllo, allora devi essere consapevole della paura di perdere il controllo. Più che della sensazione stessa. Sì, sì, più. More, if you can. If you can hold it steady, if you can be steady there, you see, and just wait, you'll see that it'll expand itself. Quindi se riesci a essere molto ferma e stabile in questa cosa, allora vedrai che sparirà da solo, si esaurirà. Quindi di notare più la paura di perdere il controllo che non della sensazione stessa. So be more aware of the fear of losing control than the sensation in itself. Yeah. And when the fear goes, go back to the sensation. Quando se ne va la paura, torna alla sensazione. When we meditate, you see, like this, and we lift our awareness to this transcendent point, transcendent of the body, heart and mind. Quindi quando noi meditiamo e in qualche modo eleviamo questo punto trascendente del al di fuori del corpo mente, outside the body mind, you see. Yeah, body, mind and heart. E cuore, corpo mente e cuore, quindi al di sopra del corpo mente. Because we're looking at them. Perché li stiamo guardando. Therefore it's transcendent. E questo è trascendente, perché è al di sopra. So therefore, because we are no longer involved directly in our thought and emotional life. Perché noi non siamo più coinvolti direttamente nella nostra vita emotiva e di pensiero. We have stopped all our suppressive tendencies. Quindi abbiamo fermato tutte le nostre tendenze a sopprimere. So all the emotional states which have been boiling and waiting to speak to us now are free to do so. I nostri stati emotivi che sono lì che sono bollono, diciamo, stanno bollendo per esprimersi, sono lì e sono liberi di farlo. So they will come up sometimes very quickly. Quindi emergeranno qualche volta anche molto velocemente. Like a storm. Come una tempesta. But that's the healing process. That's the therapy. Questo è il processo di guarigione. Questa è la terapia. Durante queste sensazioni, quando è il momento, come si fa a capire quando è il momento per tornare al respiro? So when is the moment to go back to the breathing? At what point do we go back to the breathing? You only go back to the breathing when everything is calm. Quindi si torna al respiro solo quando tutto si è calmato. Anche se dura tanto? Even if it goes on for a long time? Even if it goes on for a week, a month, a year. Anche se dura una settimana, un mese, un anno. The breath is just the point where we begin the meditation and establish this level of awareness. Quindi respiro è solo il punto da cui noi iniziamo la nostra meditazione e stabiliamo questa consapevolezza. Then anything which draws our attention, that is the object. Poi qualsiasi cosa che attira la nostra attenzione, quello diventa l'oggetto. Ah. Yeah. If, for instance, we find ourselves just because of inattention, because we've not put the right effort in, that the mind has become very restless, then we may begin the meditation again at the breath. E solo quando ci accorgiamo che non siamo, come dire, partiti prima del tempo, insomma, c'è un'agitazione perché non eravamo ancora stabilizzati nella consapevolezza, allora in quel caso si ritorna al respiro. Solo quando ci accorgiamo che la nostra mente è agitata perché non eravamo ancora giunti a quel punto di stabilità della consapevolezza, allora a quel punto ritorni al respiro. Because we've been lazy. Perché siamo stati pigri. Ah. Now, in the same way as what's your name? Danilo. Danilo. If again it becomes too much, then you can go do some walking meditation or have a cup of tea. Quindi no, se diventa troppo, così come ha detto Danilo, allora puoi fare della meditazione camminata o prenditi una tazza di tè. Cookies. Ma but no. But this is only when we really think we're going mad. Ma questo è solo quando ci siamo impazziti. Yeah, if it's too much. You know, we are entering into the den of the lion. Stiamo entrando nel recinto del leone. We must go gingerly. When there's a big roar, you say, "Oh, you come back here." Then you go in. You say. Keep going in. But these lions and snakes and crocodiles are only in the imagination. Questi leoni, questi serpenti, questi coccodrilli sono solo nell'immaginazione. And when you stay very closely to them, they disappear. E quando vi avvicinate a loro, spariscono. Ma. Ieri sera quando ho spiegato sul respiro che diceva di etichettare, no? Salire, scendere e toccare. Che cosa si intende per toccare? È quel momento in cui il respiro viene sospeso? Meglio questa cosa. The process of breathing, so you're saying rising, falling and touching. So what do you mean exactly by touching? Yeah. When we begin, then the mind, of course, is not steady. The attention won't stay steady. Quando cominciamo, la mente non è stabile, l'attenzione non è ancora stabilizzata. So you have to give it something to do. E dovete dargli qualcosa da fare. Now, when the breath is very relaxed, then we find it rises and falls and stops. Quando respiro è molto rilassato, noi troviamo che sale e scende e basta. It's in this stopping that the mind will wander away if you don't give it something to look at. Ed è proprio in questa pausa che noterete che la mente divaga, se non gli date qualcosa da osservare. So we say touching. E quindi noi diciamo toccare. Okay. Now, if you make the, say for 10-15 minutes for every sitting, you make the breath your object, then it may be that after a while you can feel that the attention is steady. Quindi se per esempio iniziamo una meditazione seduta per 10 o 15 minuti sul respiro, allora a un certo punto si avrei proprio la sensazione che l'attenzione è stabile. And you feel that going to the touch point is like a disturbance. A quel punto ti accorgerai che andare al punto di contatto diventa un elemento di disturbo. Infatti, cioè a me è andato molto disturbo, cioè nel senso che io non avevo mai praticato salire e scendere, contatto, ma solo salire e scendere. Per cui il etichettare contatto mi ha creato un po' di... cioè, preferisco fare solo salire e scendere. That's what happened to her, because she's not used to having this touch point. Okay. It's easier for her just to go do the rising and falling. Yeah. If your concentration, if your steadiness of mind is good, then you would just say rising and falling and just stay where the breath is. Quindi se la tua concentrazione è buona, puoi fare solo salire, scendere e puoi stare là dove stai respirando. This is just a technique for to get us moving towards steadiness. Questa è solo una tecnica per portarci alla stabilità. With all these techniques, eventually it's what works for you, not what works for me. Alla fine con tutte queste tecniche è quello che funziona per voi, non quello che funziona per me. And this lady, your name? Tuo nome? Sì. Silvana. Silvana. Have you any problems, Silvana? Any difficulties? Hai qualche problema, Silvana? Qualche difficoltà? Sleeping. Sleeping. So keep the effort, you see. Keep the effort coming. Lift the energy. Lift the energy. Tieni lo sforzo, cercare di sollevare l'energia. You know, I've noticed some of you in your postures. Have you all done some yoga? No? Io ho notato alcuni di voi nella vostra postura. Qualcuno ha fatto un po' di yoga? No? Teachers. You have some yoga? Yeah, who? Have you? Perhaps in the next sitting, I could ask you just to help people find that lovely posture where the back is. Sì, per la schiena soprattutto. Quindi alla prossima sessione chiederà la collaborazione degli insegnanti di yoga a aiutare gli altri meditatori a trovare quella postura perfetta. Yeah, to get the posture properly, your knees must be below your hips. Per avere la giusta postura, le ginocchia devono essere sotto le anche. If they are above your hips, then the lower back bends outwards. Se sono al di sotto della, scusate, al di sopra delle anche, allora la schiena dietro fa una curva che non è naturale. So sometimes the meditator begins sitting on a throne. And slowly the throne comes down as the legs give way. Give way. Loosen up. Yeah. So perhaps before we leave this session, we can just help people with postures. The other thing is, you know, if the posture gets too uncomfortable, especially over the next 2 or 3 days, especially in the knees, there's no problem with sitting on a chair. L'altra cosa è che se la postura diventa troppo scomoda nei prossimi giorni, non c'è nessun problema se resti sulle sedie. And when you sit on a chair, in the same way, your knees should be below your hips. Allo stesso modo, quando siete seduti su una sedia, le ginocchia devono essere sotto le anche. And then you'll find that the back is like this, you see, straight and then a curve. Allora, così noterete che la schiena è posizionata giusta, cioè dritta, e poi c'è la sua curva naturale. Now be very careful with the back, because there are two types of pain that in the back. The one is because your posture is wrong. Quindi attenzione alla schiena, ci sono due tipi di problemi. Il primo è perché la vostra postura è errata. But the other pain, which nearly everybody gets, is caused because there is some turbulence within the muscles of the body. Ma l'altro dolore che di solito, che spesso si prova, è perché c'è un po' di turbolenza all'interno dei muscoli del corpo. Some mental state caught up in the back. Qualche stato mentale che è come intrappolato nella schiena. In which case, If it's caused by the body, then you must correct your posture. Allora, in quel caso, se è causato dal corpo, dovete correggere la posizione. But when you know that your body is in the proper position, then when the other type of pain comes, you must sit with it. Però una volta che sapete che voi siete seduti nella giusta posizione, allora quando subentra il dolore alla schiena, sapete che quell'altro tipo e dovete sopportarlo. And see it as healing. E vedetela come un modo per guarire, un metodo di guarigione. It is often the case that mental states in the body are healed through the body in pain. E qualche volta è proprio il caso di stati mentali che sono in qualche modo appunto intrappolati dentro il corpo, sono poi guariti attraverso il corpo stesso. And you, attraverso il dolore del corpo. And you never know what the emotion was. E non saprete mai qual era l'emozione. If the pain persists for over a period of days in the same place, does that necessarily give us a clue as to which type of pain? Se il dolore persiste in una particolare parte del corpo per un certo periodo, quello ci dà un indizio rispetto a qual è il problema. If you have a back pain, I mean, I've had a slipped disc, you know, and I could still sit with it, but I knew that it was the pain there was caused by the spine itself. How do you say that in Italian? Slipped disc. Slipped disc. You have something. The disc is gone. Yeah. Nervous disc. Allora in quel caso lui aveva dolore alla schiena, però sapeva che era provocato da questo. So you can only, you know, work with it yourself to find out. Quindi possiamo lavorarci da sola per scoprire di cosa si tratta. Have you got a back problem? No, I haven't. No, okay. I've never had any back problem. Great. Before coming here. Very good. And upper back. Ah, yes. Between the shoulders. Oh, that's the chakra, you see. Very good. Yeah, all these pains in the, you know, the here and here. Yeah. Although Buddhism doesn't have any teaching about the chakra, this is more to do with the yoga Hindu system, you definitely know you have chakras in the meditation. Yeah. You see, for us, the process of healing in the body will happen quite naturally. We don't have to do anything. Cioè, per noi il processo di guarigione del corpo avviene molto naturalmente, non dobbiamo fare nulla. I'm not talking about physical illness, but the mental illnesses in the body. Quindi non sto parlando di malattie fisiche, ma di malattie mentali, diciamo, all'interno del corpo. And for us, the interest is in knowing how to deal with that so that they can heal. L'interesse per noi è sapere come trattare questo in modo da guarire. Which means we note the reaction of fear, not wanting, let it go, and then open up to the pain, relax around the pain, let the pain arise. Quindi noi osserviamo proprio il dolore, scusate, la paura. L'avversione rispetto al dolore, lo lasciamo andare e poi torniamo al dolore per osservarlo meglio e lasciarlo andare. Not easy. Non è facile. Ok? Sì, va bene? No, Silvana. Sì, ma cioè, in che senso intendeva problemi? Non so. Noting, the noting is you find it helpful. Trovi utile etichettare? Sì, però come dicevo, cioè le prime sedute praticamente era tutto un ritornare dal sonno, insomma, quindi era tutto un etichettare che c'era questo sonno e ritornare. Sì. So the first label is more about sleepiness, yeah, coming back. So the label sleepiness and then go back to her. Yeah. I'll be talking about the hindrances this evening more. what is your name? Claudia. Yes, is it important to distinguish between planning and dreaming, or just when noting? Uh-huh. Is it important to say, yeah, this is dreaming? Or this is planning, or this is past. Oh, I see. And it's important to distinguish between sognare or pianificare, oppure dire questo è passato, questo è futuro. We just want to become more aware of the obsessions of the mind. Vogliamo semplicemente essere più consapevoli delle ossessioni della mente. That's all. And then we want to find, or we want to contact directly, the emotional heart state which is causing it. E vogliamo contattare direttamente lo stato emotivo del cuore che lo sta causando. Because the problem lies here, not in the head. Il problema è qui a livello del cuore, non nella testa. The problem lies in our emotional and attitudinal states. Riguarda gli stati emotivi, l'atteggiamento. So the more we can be precise. So for instance, we might note some image of somebody comes in the mind, and we might note hating. Quindi per esempio possiamo avere l'immagine di qualcuno nella mente e possiamo notare odiare. But actually, when we really see what's happening, we might think, oh, jealousy. Però quando guardiamo attentamente ciò che succede, allora magari viene fuori gelosia. Now, normally speaking, we don't like to think of ourselves as being jealous. Ma normalmente a noi non piace considerarci delle persone gelose. Cioè. This is humiliating. Somebody's better than me. So I know, when I come in, I feel. So there are certain things that we don't like to feel: shame, guilt. So then, this is an opportunity to allow just the raw feeling. Un'opportunità proprio per permettere il sorgere di questa sensazione cruda. And that's how it heals itself. Ed è così che poi guarisce se stessa. You see, always remember, you don't have to do anything. Ricordatevi sempre, non dovete fare nulla. Just watch, feel, and come to know. So osservare, sentire e arrivare a conoscere. Basta. and your name? Beniamino. Beniamino. Any problems? Any? Perhaps the point when we should stop observing the breath and go and start observing other things. When it's hard to find when exactly is. Uh-huh. So I don't know when the mind is really calm, or sometimes feel it could go on like this, or should I stop? Quindi il problema di Benjamin è capire esattamente quando passare dall'osservazione del respiro a un altro oggetto. Quindi a volte gli sembra di poter restare per molto tempo sul respiro, e quindi non sapere esattamente quando invece è abbastanza calmo per osservare altre cose. Generally speaking, you stay with the breath until something really draws you. Quindi normalmente si resta sul respiro finché qualcosa di veramente forte attira l'attenzione. You know, till it's loud enough for you to, oh, well, let's go. Quando è abbastanza forte perché tu, insomma, venga attirato in quella direzione. The noting technique, is you're easy with that, it's helpful. Yes, it's helpful. L'etichettatura è utile. And your name? Claudio. Claudio. Any problems, any questions? Come Silvana, i primi due giorni succede sempre che il torpore, non riesco, cioè etichetto il torpore, però cioè non vado oltre questa cosa qua. Silvana, the first few days... cioè anche la stanchezza fisica, una spossatezza molto presente. Standing meditation is equally good as sitting meditation. Anche la meditazione in piedi è altrettanto buona quanto la seduta. And the first 3 days are very much about lifting the energy. E i primi giorni molto ha a che fare proprio con il far sorgere l'energia. Oh, by not calling dullness and lethargy tiredness. Per esempio, non chiamando la letargia, specialmente chiamarla stanchezza. Distingue tra la stanchezza e questo stato letargico. So then we must stay awake no matter how drowsy we feel. Quindi ci teniamo a stare svegli nonostante ci sentiamo così, come dire, pigri mentalmente. So that's why as soon as you see, then you can feel the heaviness, eh? Mm-hmm. And it's coming. Okay. The tired, the sloth, torpor, dullness, heaviness. Okay. Then you can whoop, and then you open your eyes. You see. Uh-huh. Open your eyes, whoop, oh, stand up. E tu senti arrivare questo stato pesante, di torpore, di mente non lucida, insomma, no? Opaca. E allora a quel punto apri gli occhi, per esempio, può essere. Sì, yeah. That's it. I sorry, piedi. And then if you feel you're falling over when you're standing, I go outside, do some walking. Se senti che anche in piedi ti senti cadere, cascare, allora vai fuori e fai un po' di camminata. La camminata è valida come la seduta o va fatta, cioè gli stessi risultati, o va fatta solo quando uno è molto intorpidito? The walking meditation is valid as a sitting, or does it have to be done only when you have softness or coming up? Well, it's as valid, but it's when you're sitting in the hall and there's so much of this tiredness and sloth around that it's sometimes best just to leave and do some walking meditation. C'è valida come la seduta, solo che quando si è seduti nella sala di meditazione c'è tutto questo torpore, questa pigrizia mentale, insomma, allora in quel caso è consigliabile alzarsi e fare una meditazione familiare. Francesco. Sì, anch'io come gli altri due ho avuto molta sonnolenza, soprattutto ieri e vabbè, un po' meno stamattina, ma credo che sia una cosa anche fisiologica, col tempo passa, insomma. Capita quasi sempre il primo giorno di... A lot of sleepiness, which always happens the first day of a retreat, I think that was a little bit past. Everything passes. Good. Yeah. As long as yes, okay. And Gabriella. Gabriella, sorry. E a differenza di altre volte, sia ieri che nella meditazione di ieri che in quella seduta, ho sentito una forte instabilità. Instabilità? Quindi faccio proprio fatica a stare in piedi, a stare seduta, avevo sempre bisogno di un appoggio. Mm. Adesso sento che sta iniziando ad andare meglio. Oh, she's noticed compared to other times that this lack of steadiness that she finds, especially last night in the standing and also the sitting. Now it's getting better, she's been coming a little bit more. Steadiness of attention. No. No. No, in the body, I think. Oh, in the body. Qualcosa di molto vecchio che so che sta venendo. She thinks of something that is rooted in the past and that is coming to the surface. Yeah, don't worry too much about the past. It doesn't exist. Non preoccupate, il passato non esiste. So, yes, if you feel unsteady like that, feel dizzy, take a seat. Not a problem. Se ti senti un po' instabile, hai dei capogiri, allora sediti, non c'è problema. Don't see your meditation as a case of success and mistakes. Non vedere la meditazione come possibilità di avere o successo o fare errori. Think of it more like trial and error. Pensa più come un tentativo ed errore, quel tipo di atteggiamento, sbaglio ed errore. Sperimentazione. And this is the attitude we should have in our lives. Che è l'atteggiamento che noi dovremmo avere nella nostra vita. We live in a world where we don't know the parameters, we don't know. So we have to be testing. Viviamo in un mondo in cui non conosciamo i parametri, quindi dobbiamo continuamente provare, fare delle prove. We don't know even our own potential. Non conosciamo neanche la nostra potenzialità. Yeah? So just try that. If you try this, it doesn't work. You try this, it works, but next time it doesn't work. Quindi noi proviamo una cosa e funziona, ma lo proviamo poi un'altra volta e non funziona più. The mind is tricky, eh? La mente è molto ingannevole. Very good. Anything else? C'è qualcos'altro? Ah. I use the nostri. That's okay. Are you used to, you're used to using the nostrils? That's your usual place? Yes. That's fine. There is one subtle difference between the nostrils and the belly. The nostrils, when you hear, you tend to lose the body. C'è una sottile differenza tra sentire il respiro delle narici e l'addome. Che quando si sente le narici, si tende a perdere contatto con il corpo. When you're in the body here, you tend to be in the body. Invece quando si sente a livello dell'addome, si tende a essere dentro il corpo. And the connection between the rising and falling of the abdomen and the rising and falling of the foot. E c'è questo collegamento tra l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome e l'alzarsi e l'abbassarsi del piede nella camminata. And I think that is why the Mahasi chose the breath at the abdomen. E credo che sia per questo che l'Ave Mahasi ha scelto di osservare il respiro a livello dell'addome. Though I don't know why he did, because it's nobody can answer that question for me. Maybe he just did it intuitively. Anche se non so il motivo per cui abbia fatto questa scelta, nessuno me la sa spiegare. Penso che l'abbia fatta a livello intuitivo. Sorry, does that mean that in the walking meditation that the steps should be rather coordinated with the movement? No. Chiede se questo vuol dire che nella camminata i passi dovrebbero essere in qualche modo coordinati con il respiro, no? Ok, va bene. Tutti sono felici. So, if you could just help them with their posture just now, and if you could just help one or two, just make sure that their posture is correct. By explaining or no, show, touching them, show, you know, get them. Yeah, get it right. your posture is okay. Is it sit on something, on a cushion? Very low. No, higher cushion. Okay. That's because you're sitting too far back on the cushion. The nerve and the artery come out right after the buttock. If you're pressing on those, then you'll find your legs go dead, pins and needles. You must sit on the pins of the hips. Right? No, it's up to you. It depends on the back. Does it have its cap curvature? You can ask. No, because what I'll do is I'll get them to do walking now. Not be sitting. Thank you. Qui sono sempre persone in arcata, esatto, solo che adesso che ho cominciato la partita a fare insegnare l'arte, devo tenere da dritta, non in arco ancora di più, quando si prende da qua, mi appoggio qua, mi fa male qua qui, non riesco a sentire quando la schiena è dritta, quando stai in piedi, sì, allora devi girare un po' le ginocchia, in questa posizione, e il bacino, porti il tuo corpo in avanti, poi lascellare le spalle. Allora si toglie chi di per l'odore. Ma da seduti come si fa? Perché bisogna stare con i bacini fuori? No, perché se tieni, le ginocchia appoggiate e il bacino più alto, non dovresti stare in giro. No, cioè, perché porta. Però a me non è